Ciao a tutti, da Alex Alge, siamo qui per presentare un libro di Alessandro Manca, esperto di Beat Generation, ricordo sempre con la tesi su Pier Vittorio Tondelli, che è anche un mio grande riferimento, e possiamo dire che Uccello nel guscio, che è il libro di cui andremo a parlare, possiamo dire che è la seconda parte di un'antologia, un progetto che è iniziato molti anni fa, che si impegna a raccogliere degli scritti inediti della parentesi della Beat Generation italiana durante gli anni 60. E diciamo che questa è la seconda parte, quindi direi quella conclusiva. E insomma, ti chiederei prima di tutto di raccontarmi un po' la genesi e come si è arrivati a questa pubblicazione. Insomma, vorrei un po' sentire da te il processo che ha portato a quest'opera. Sì, allora in realtà la genesi di questo lavoro, di questa ricerca, affonda un po' in tanti anni fa, una quindicina di anni fa, quando con grande stupore ho scoperto che prima del 1968 una serie di ragazzi che hanno deciso con coraggio di cambiare vita fondavano e hanno fondato riviste underground in cui la parola scritta, la parola letteraria scritta è stata fondamentale per loro. E allora cominciò un po' semplicemente per una mia necessità, una mia curiosità, una voglia di conoscere e capire il senso delle loro azioni, a ricercare dei materiali, a ricercare delle scritture che erano finite in riviste come Mondo Beat, per citare un po' la più celebre, ma tante altre. E poi quel mio percorso di ricerca, che non aveva ancora un'idea di uno sbocco, di una collocazione, ha intercettato Francesco Tabarelli, che contemporaneamente, in quegli anni, stava girando l'Italia per andare a intervistare quei ragazzi per farci un documentario. E Francesco mi propose di allegare un libro al suo lavoro di documentarista. Io, stiamo parlando di 7-8 anni fa, io gli risposi subito di sì, ma non ero pronto, non ero abbastanza preparato per scrivere un saggio su questi materiali o una riflessione tutta mia, e ho optato per scrivere, o meglio per radunare in un'antologia parte di quelle mie ricerche, parte di testi di altri, soprattutto testi scritti negli anni 60, nella seconda metà degli anni 60, anche perché un'antologia, un libro di questo tipo in Italia non esisteva. C'erano stati dei tentativi, e questi tentativi entrambi italiani vedevano Fernanda Pivano come una persona importante per portare avanti due ipotesi antologiche tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 che non hanno mai visto la luce. Quindi questo lavoro non c'è mai stato. Con Uccello nel guscio, sostanzialmente un po' questa ricerca di 15 anni si chiude, perché ho aiutato a far tornare alla luce altri materiali, spesso scritti dagli stessi autori, contenuti nella prima antologia che si chiamava I figli dello stupore, la Beat Generation italiana. E data la quantità così ampia di scritti contenuti, perché stiamo parlando di un'antologia di 500 pagine, per certi versi il grosso di ciò che ho visto di matrice letteraria underground tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, un po' con questa antologia si può dire di avere un po' chiuso un grande capitolo, legato alle mie ricerche e alla mia curiosità. Dico una cosa in più, vi racconto magari un pochino come è strutturato questo librone. Dopo una mia introduzione che cerca di chiarire e raccontare un po' il contenuto del libro stesso, Gianni Milano ci ha regalato a gennaio una sua prefazione molto bella, e Gianni Milano è anche in copertina. Abbiamo deciso di scegliere una foto particolarmente significativa, una foto di Gianni Milano, uno dei poeti underground più importanti che abbiamo in Italia, con Allen Ginsberg a Torino, loro due che dialogano e quindi simbolicamente è un po' il la rappresentazione del dialogo tra i nostri poeti underground e i rappresentanti beat americani, che è di fatto un po' il filo rosso che fa sì che i testi contenuti in Uccello del Guscio abbiano in qualche modo una coerenza tra loro. Da una parte l'idea e la pratica di una poesia molto diversa dalla tradizione italiana e dall'altra parte i frutti di questa pseudofiliazione tra uno stile, una modalità di tematiche che provenivano dai beat americani che sono state prese da questi ragazzi che stavano di fatto cercando una loro modalità per essere uomini, per essere scrittori, per essere poeti, diversa rispetto alla tradizione nostrana. Che infatti ti volevo fare una domanda, ma a proposito di questa foto, cioè, c'è un pochino di passaggio di testimone tra un primo momento, una prima generazione americana e successivamente qualcuno in Italia che va ad interessarsene e va a raccogliere, tra virgolette, a raccoglierne l'eredità e quindi riproporla sotto una, diciamo, variazione, ecco, in chiave italiana nel senso, adesso parlo solo di lingua. La risposta è un po' un sì e no, nel senso che una vera filiazione che vede centrali beat americani non ci fu. Mi spiego meglio. Ginsberg, quando venne in Italia, credo nel 68 a Spoleto, disse ad alcuni beat italiani, ad alcuni capelloni italiani, voi mi fate tenerezza, ma il beat è morto. Chiaramente Ginsberg parlava di un'esperienza cominciata, diciamo, negli anni 40, in maniera sotterranea vera e propria, e venuta alla luce nel 55-56. Quindi per Allen Ginsberg, e siamo magari nel 67-68 in Italia, il portato beat che si portava dall'America per certi aspetti era un po' concluso, o quantomeno era radicalmente mutato anche dalla fama, dalla visibilità, e dalla singole, passami il termine, carriere degli amici beat americani. Mentre una sorta di filiazione da parte italiana di fatto vi fu. Fondamentale, per fare una citazione di un'opera uscita in Italia nel 64, fu l'uscita per Feltrinelli dell'antologia Ultimi poeti americani. Questa antologia fu un po' uno spartiacque tra il prima e il dopo, e molti di questi ragazzi che avevano deciso di intraprendere un'altra idea di vita e di scrittura lessero questa antologia, e da questa antologia presero di fatto stilemi e modalità. Esempio specifico, pratico, molti di questi ragazzi nella loro poesia iniziarono a inserire delle parole che allora erano parole considerate vietate, come cazzo, figa, masturbarsi. Anche nell'antologia del 64 erano inserite queste immagini in una maniera un po' tra virgolette creativa. Ogni qualvolta si doveva citare la parola cazzo, la parola figa, non c'era scritta la parola stessa, perché nel 64 si rischiava una censura e anche eventuali processi per scrivere queste parole in maniera chiara, ma vi era il simbolino di maschile e femminile. Però il concetto che stava dietro era palese. Molti di questi ragazzi iniziarono anche una di fatto sperimentazione di un'altra prosodia, un'altra modalità anche ritmica di scrivere delle poesie. Dopo vi leggerò per esempio una poesia che molto probabilmente riflette e restituisce la lettura di Caddisce di Allen Ginsberg, un poeta italiano che parla della propria madre con una certa scansione prosodica di fatto molto simile, o quantomeno sicuramente molto vicina a certe scritture beat, lontanissima dalle scritture standard poetiche italiane. Quindi diciamo, okay, una certa filiazione vi fu, anche se molti di questi poeti, o per esempio anche Gianni De Martino, aveva diciamo, il bagaglio culturale, la fascinazione molto ampia per i maledetti francesi, per esempio, anche Baudelaire, Rimbaud, quindi molti di questi ragazzi comunque avevano un bagaglio anche molto europeo alle spalle, letture di dei grandi maestri alternativi europei, e soprattutto stiamo parlando di grandi poeti francesi, per esempio. Sì, io ti volevo chiedere un'altra cosa, perché secondo me poi quando si va, secondo me si va a riprendere, a riscoprire, no, del materiale anche datato, anche un po' nascosto, dimenticato, ci sono principalmente poi due componenti. La prima, che per me rimane abbastanza indissolubile, cioè che è il fascino della ricerca, il fascino dell'aneddoto, del ricordo, dell'antologia. E il secondo è cosa di tutta questa esperienza ci possiamo riprendere e riportare ad oggi, che secondo me va assolutamente di pari passo. Cioè, cosa di questo periodo storico, di questa proposta, adesso stiamo anche più nel dettaglio di questa antologia, che temi ci possiamo poi riportare e attualizzare al giorno nostro? È una bella domanda e che porta a una riflessione per certi aspetti doverosa. Dal mio punto di vista ci possiamo e ci dovremmo portare a casa il fatto che si può e si dovrebbe vivere la letteratura con maggiore coraggio introspettivo, senza pensarsi e pensarla in prima battuta come una mossa di marketing. Faccio un esempio reale che aiuta a chiarire in maniera netta quello che ho provato a raccontare poco fa. Uno degli aspetti che mi colpì molto anni fa fu il capire in maniera evidente come la stragrande maggior parte di questi ragazzi che scrivevano su delle fanzine o che fondavano delle case editrici totalmente underground e autogestite non erano interessati a farsi pubblicare da grandi editori. Anzi, quando vi furono dei movimenti dall'alto di curiosità e interesse verso questi ragazzi, una buona parte di loro vissero tutto ciò come un'intrusione. Sì, sì. Per esempio, quando Feltrinelli fu interessato all'ultima fase di Mondo Beat, molti ragazzi di Mondo Beat videro questo sguardo di Feltrinelli, che dal suo punto di vista era uno sguardo di aiuto e di appoggio, come un movimento di intrufolamento di un essere che non faceva parte della propria tribù. Quindi, da una parte, tornando un po' alla tua domanda, il vivere la letteratura come un momento radicale anche di autoconsapevolezza, il vivere la letteratura doverosamente fusa con la propria vita, con i propri, certo, passi, gesti di vita, quindi non come un'opera staccata da sé o un'opera da portarsi avanti dalla propria, diciamo, scrivania di letterato. Ecco, questi poeti, questi ragazzi, non furono dei letterati, semmai bensì furono dei poeti veri e degli scrittori veri. Per certi aspetti furono dei nipotini di Arthur Rimbaud, per il coraggio, anche il coraggio di abbandonare un attaccamento al libro, alla veicolazione, al commercio della propria opera. L'importante era utilizzare, capendola, la letteratura come parola che modifica, come parola che ha un peso nella vita tua e della tua tribù, non come modalità di commercio librario. Noi oggi, credo, viviamo un panorama radicalmente opposto. Io vivo la dimensione per la quale più o meno tutti noi siamo tentati di pensarci come ingranaggi di una mossa di marketing. È più importante inventare il titolo buono senza neanche avere l'opera. Mentre questi ragazzi esattamente facevano un percorso all'opposto. Concludo un po' ricordando anche quanto, e questa cosa è sorprendente per i nostri anni, quanto questi ragazzi pagarono di persona il prezzo di questa modalità di agire, sia di vita, per esempio questo vuol dire che avere i capelli lunghi nel 1965 faceva sì che costava caro. Costava molto caro. Gianni Milano mi ha raccontato dal vivo anni fa come lui, entrando in un bar dei portici del centro di Torino con una moneta in Bella Vista per comprarsi un caffè, la moneta in Bella Vista serviva per far capire che anche se aveva i capelli lunghi e la barba, aveva i soldi per pagare, è stato trascinato fuori dai capelli, cioè l'hanno preso e l'hanno trascinato fuori dal locale. Quindi questo è per fare un esempio di quanto costasse portare avanti la vita come la volevano portare avanti questi ragazzi. E adesso invece vi sottolineo quanto costasse essere poeta che usava un certo tipo di parola. Sempre Gianni Milano, ma questa è una storia comune a molti altri, subirono dei processi veri e propri solo per aver usato delle parole determinate, che erano quelle famose parole vietate che ho accennato prima, nelle loro poesie. Cioè, oggi sarebbe impensabile che se io scrivessi cazzo in una mia poesia qualcuno mi porta in tribunale, e allora le conseguenze erano particolarmente serie, ecco. Però guarda, anche su questo, se prendo al balzo, cioè, il tema che hai aperto, se potessi farti una domanda, cioè, quanto il senso di avere un'opposizione, una censura reale, legittimata dallo Stato, dai cittadini, dai ben pensanti, portasse in qualche modo a avere, tra virgolette, chiara la battaglia da percorrere? Perché poi la domanda che mi faccio sempre è, cioè, in un periodo storico in cui, non so come dirti, si può dire tutto, tendenzialmente si può dire tutto, quasi tutto, a priori. E nulla peso. La squalifica, esatto, la squalifica, diciamo, viene interpretata, avviene, diciamo, sotto il segno del non audience, il non arrivare, il non, usando un'espressione di Foucault, nella non possibilità che un discorso circoli. Cioè, perché viene automaticamente squalificato. Certo. Tu puoi dire quello che vuoi, ma rimane nell'inautentico, rimane aleatorio, rimane in aria. E la tua provocazione sfonda una porta aperta. Poi ci sarebbe un discorso molto lungo da fare sul postmoderno e su cosa ci ha portato. In qualche modo quelle barriere così castranti di allora hanno fatto sì che questi ragazzi e le loro opere avessero la possibilità di vivere un'esperienza vera e un'esperienza con delle conseguenze significative, sia dal punto di vista letterario, anche se stiamo parlando di, passami il termine, una letteratura minore, e sia un'esperienza di vita che ha portato delle conseguenze feconde o quantomeno serie, drammatiche. Oggi viviamo in una bolla di una grandissima gomma da masticare in cui qualsiasi gesto, per certi aspetti, è un gesto compiuto in una solitudine tragica che non ha conseguenze di fecondità. E poi fa sorridere quanto, rivalutando quella censura di allora, fosse banale e ridicola, o quanto quella censura così castrante in realtà, in alcuni casi della storia della letteratura anche italiana, prima tu hai citato Tondelli, altri libertini viene censurato, portato a processo, e altri libertini fa un botto clamoroso grazie a quello. Quindi quanto era stupida quella censura, però quanto in qualche modo questo dialogo tra ciò che per la società più o meno implicitamente era permesso e ciò che non lo era, era una dinamica in qualche modo, mi viene da dire, sana. Sì, sì. Perché questa contrapposizione dava un senso a me in una, non dico in una battaglia, o alle volte anche in una battaglia, ma in un percorso, in un traguardo, in una storia. Oggi non esistono queste paratie da nessuna parte, e in qualche modo però niente storia, niente battaglia, almeno sembra di vivere in un orizzonte in cui nulla ha il senso di seguire una strada, pagandone anche i prezzi, naturalmente. Sembra che oggi viviamo in un'eterna leggerezza drammatica che non porta veri frutti mai. Sì, sono piuttosto d'accordo. Ma, senti, posso leggerti una roba? Direi proprio di sì. Allora, poi entriamo più nel vivo. Entriamo più nel vivo di alcuni testi. Poi volevo necessariamente dire una cosa oggi. Se c'è lo spazio, leggerò delle cose un po' di più di Aldo Pieromalli, perché pochi giorni fa Aldo Pieromalli è morto. mi ha dato molto da pensare per tante ragioni. Per esempio, questo libro di cui parliamo oggi si chiama Uccello nel guscio, sottotitolo La letteratura beat italiana. Uccello nel guscio è il titolo del primo volume di poesie di Aldo Piromalli, pubblicato nel 71. Aldo Piromalli mi ha scritto l'ultima lettera poche settimane fa e io pensavo di andarlo a trovare ad agosto. E Aldo Piromalli è uno dei grandi poeti che hanno innervato la nostra piccola, minore ma grande letteratura underground italiana. E vorrei leggervi magari una o due poesie di Aldo Piromalli e poi la poesia di cui ho citato prima un po' il contenuto, che assomiglia un po' anche per portare nel pratico questo parallelismo America-Italia. Vai, vai. Allora, vi leggo una poesia che non è contenuta nell'antologia di cui sto parlando oggi, ma in un mio libro precedente. Prego. Di Aldo Piromalli. La città di cemento e metallo apre le porte alla notte e il passo di milioni di uomini aumenta sull'asfalto. Grande la corsa verso le luci, il mito della forza. Sovrasta i cieli delle cattedrali. Gli esseri della metropoli vagano per i ponti. Quale malattia ci penetra le ossa e i sogni che abbiamo? Perché non muoiono alle prime luci? Il mio delirio nero ha un'acuta sete d'azzurro, mito, fanciulla nuda e segreto di rivoltella, angoscia mia d'Europa, in un pisciatoio all'aperto dopo il film dei sogni. Alle 7 di sera gli uomini escono dalle fabbriche per morire di pubblicità. La solitudine dei tram viene a inghiottirci la notte. Questa fu scritta nel 1965. Ve ne leggo un'altra, sempre di Aldo, contenuta questa volta nell'antologia Uccello nel guscio, ed è una poesia inedita. Si intitola Sono andato in Bretagna e fu scritta nel 74. Sono andato in Bretagna e mai più ci tornerò. Lei m'aspettava in Bretagna, sotto un albero di mele, vicino al fiume ci baciammo, e mai più ci tornerò. Eppure era bello il paese, con le foreste, le rocce, il mare, le ragazze bionde, azzurre, con il vento e i panni al sole. Ho dormito solo col vento sulla strada di Bretagna e mai più ci tornerò. Ora vi leggo un pezzettino di questa poesia che è un po'... non è cortissima, però ve ne leggo solo una parte per esemplificare quasi quello che accennavo poco fa, una sorta di vera parentela tra ciò che avvenne in America negli anni 50 e la produzione di questi ragazzi di 10 anni dopo. Questa poesia la scrisse Renzo Angolani ed è contenuta in una fanzine che si chiamava I lunghi piedi dell'uomo. Per chi di voi ha un po' più di dimestichezza con Allen Ginsberg, qui ci sono molti richiami alla prosodia di Caddisce, la poesia dei morti che lui dedicò a sua madre. A cercarti le parole, seduto, ho visto mia madre gridare di dolore, occhi chiusi, velati nel trauma delle luci, degli angeli pazzi. È mia madre, è tua madre. E nella testa ho il dolore che si era infilato nel cranio, che si era infilato, grande, chiuso nella dolce testa di mia madre. E mio padre che camminava scosso, tremante, infinito cerchio di domande per vivere nel giro bastardo, sommerso da ogni respiro, schiacciato per terra, spaccato. Ho visto le sue vene nel canto di morte, dolce morte col respiro, ma per il dolore pazzo, angelico dolore di tutte le teste che si incidono. E mia dolce madre, abbandonata sul cemento che grida, e mia dolce madre, con la forza degli angeli, e mia dolce madre che urli distesa per terra senza voce, e mia dolce madre, col cervello che urla e la mia bocca vuota nel respiro grave, perché la tua testa che digrigna lamine di pietra. Queste un po' sono le prime due strofe di questa bella poesia. Ci sta. Io sono abbastanza un fan della lettura dal vivo, perché secondo me è molto rappresentativa. Guarda, arrivati a questo punto, un po', se vogliamo un pochino più magari entrare nel dettaglio anche della scelta della rassegna, cioè della rassegna, della raccolta, la scelta, diciamo, qual è stato un po' il disegno anche che avevi in mente tu quando ti sei messo, diciamo, a fare questo lavoro, questo percorso. E diciamo, vorrei un attimo sapere, cioè, su che cosa in particolare ti sei soffermato e perché hai deciso di strutturarla così, che a cosa principalmente all'interno dell'opera vorresti dare maggiore rilievo. Allora, prima di raccontarvi brevemente un po' i capitoli di questo libro, vi racconto come dentro di me, sia anche per l'antologia I figli dello stupore, quella precedente, io ho valutato alcuni testi che ho trovato di fronte come dei materiali utili per capire che cosa stava succedendo in quel momento, per capire come questi ragazzi stavano cercando di rielaborare le loro intuizioni, dove volevano scappare, perché volevano scappare, con chi se la stavano prendendo. E questi testi io li chiamo dei materiali, perché spesso sono poesie molto semplici, molto dirette, molto crude, che per certi versi, nei confronti della grande poesia, sono invecchiati, non hanno la forza di essere affiancati alla grande poesia. Accanto a questi testi, però, ci sono delle poesie che in realtà sono grandi poesie. Sono dei testi scritti probabilmente da ragazzi che avevano una competenza letteraria, stilistica, di qualità, che semplicemente cercavano altre strade, strade alternative, ma avevano sia un background di letture importanti e sia anche delle capacità e anche probabilmente un tirocinio, una gavetta importante. In questa antologia di 500 pagine ci sono entrambe la tipologia di materiali, quindi poesie che per me, per come le valuto io, sono preziose per costruire anche un panorama di quegli anni 60 e 70 più ampio e più completo, accanto a dei veri e propri capolavori. Il libro comincia con un prologo di 5 testi che secondo me hanno la capacità di introdurre il lettore in questo nuovo, per molti nuovo quantomeno, orizzonte letterario e esistenziale. Sono dei testi che ho proprio scelto come testi che avevano le capacità di farci immergere in questa nuova modalità di intendere le cose, sia di vita sia di letteratura. Il secondo capitolo è il capitolo più ampio di tutta l'antologia ed è il capitolo dedicato alle poesie degli anni 60. E ci sono poesie tratte dalle principali fanzine alternative di quel momento, soprattutto fanzine dal 1965, 66, 67. Accanto a questo c'è un capitolo che io ho chiamato Verso la performance, il capitolo numero 3, dove ci sono 2 contributi, di cui uno molto molto lungo. Qui ci sono 2 esperimenti di montaggio di testi poetici. In particolare uno, ci sono molti poeti, ragazzi, che hanno pubblicato questo testo su una rivista che si chiamava Mai, pubblicata a Milano nel 68, ed è un testo particolarmente lungo, stiamo parlando di 30 pagine, in cui ci sono da una parte dei testi montati ad hoc per un qualcosa che non è più una lettura di poesia, ma si va verso una performance sperimentale poetica. Interessante come in questo testo ci sia anche tutte delle notazioni riguardo a che musica di sottofondo mettere, che luci mettere. Quindi si va, rispetto ai capitoli precedenti della poesia pura, per certi aspetti, anche se spesso era una poesia che si leggeva a alta voce in pubblico, però qui siamo un passo in più verso degli esperimenti che per allora erano comunque esperimenti avanguardistici, per certi versi. Il concetto di sinestesia. Per certi versi sì. Capitolo numero 4 è un capitolo molto particolare, Ci sono solo poesie e lettere di Gianni De Martino, scritte dopo l'esperienza di Mondo Beat, quando lui va a vivere per anni in Marocco. Lì scrive molto, spesso una sua interlocutrice era Fernanda Pivano, e Gianni mi ha concesso di riportare in questo volume due lettere e alcune poesie scritte sotto effetto di acidi, ed è un capitolo tutto a sé. Il capitolo seguente, il numero 5, sono le poesie degli anni 70. Io nell'introduzione sottolineo come per molti di questi poeti, o soprattutto per chi continua a scrivere, perché non tutti continuano a scrivere, o quantomeno non c'è traccia di molti di loro, chi continua a scrivere spesso subisce la loro scrittura subisce delle modifiche stilistiche. Alcune irruenze che c'erano negli anni 60 si sfumano in un aspetto che magari alle volte va verso un mondo sognante, fantastico, un po' più surreale o un po' più sperimentale. Ci sono alcuni poeti che cominciano a scrivere magari le cose più importanti negli anni 70 che hanno un piglio, un taglio più sperimentale rispetto a una componente contestativa che la fa per la maggiore negli anni 60. Capitolo numero 6, capitolo di racconti, ci sono 5 racconti, di cui 2 inediti di Aldo Piromalli, sempre tratti da riviste o comunque da situazioni underground significativi. Da quello che ho potuto cogliere io, i racconti underground sono minoritari rispetto alle poesie underground, diciamo, della fine degli anni 60, inizio anni 70, però qui ci sono comunque, c'è una piccola parte che rappresenta questa via un po' più complessa e completa semplicemente per lunghezza rispetto alle singole poesie. E l'ultimo capitolo, molto breve, che ho voluto intitolare Un film, contiene un esperimento dalla rivista Esperienza 2 di Lucca del 1967, che è un'ipotesi di film ispirato alle opere di William Burroughs. Questo mi fa dire che i nostri ambienti underground italiani per certi versi sono stati anche avanguardistici nel cogliere delle suggestioni che poi magari sono diventate negli anni 70 e anche dopo molto più alla portata di tutti, o anche per certi versi, come la poesia di Alain Ginsberg, è diventata una poesia molto più di massa anche. I nostri sono stati allora, in un periodo non facile, anche a livello di conoscenze rispetto a cosa avveniva all'estero, con le antenne ben tirate su per cogliere questi movimenti di alternativa che provenivano anche dall'estero. Questo è un po' questo film, questa ipotesi di film conclude un po' questa antologia. Ci sta. Io direi che siamo entrati abbastanza nel dettaglio dello scheletro della composizione dell'opera. Adesso ti volevo chiedere se prima delle ultime conclusioni, degli ultimi approfondimenti, se c'è qualche cosa che vuoi che ascoltiamo qui in radio, qualche pezzo, qualche rimando, qualche... Siamo assolutamente liberi, quindi possiamo mettere quello che vogliamo. Allora, io, per rimanere un po' in un mondo di coerenza, sto pensando a un esperimento che nel 72 fece una band italiana che si chiamava Living Music. Loro fecero un album dedicato ad Allen Ginsberg, e quello probabilmente fu uno dei primi esperimenti dichiaratamente ispirato ai beat, quantomeno a un beat americano, e magari ci possiamo ascoltare un pezzettino di quell'esperimento. Vado. Distraught by madness, starving, hysterical, made, dragging themselves starry dynamo in the machinery of night. Thank you. abbiamo fatto un ascolto integrale e ci stava, abbiamo scelto un brano, ma l'abbiamo ascoltato dall'inizio alla fine. E io direi a questo punto, magari, non lo so, chiudiamo con una lettura. Sì, allora vi vorrei leggere una poesia di Gianni De Martino, che con qualche variante si trova nell'antologia che ho curato io. L'originale fu pubblicata in Mondo Beat numero 4 il 31 maggio del 67. Ho bevuto alle fontanelle delle piazze monumentali, diviso sigarette e parole negli alberghi della gioventù, e udito mille treni fischiare all'alba, e camminato verso un convento in lontananza per una scodella di minestra. Al crepuscolo cercavo la nota musicale smarrita nell'infanzia, quando mio padre dettava e mia madre cantava. Poi andavo a dormire sotto i ponti o nei cantieri, splendidi cantieri di rovina, e al mattino di nuovo sulla strada, la mia università, quando camion rombanti mi sfioravano e, niente chiacchiere, mi si parava davanti l'autostrada, dove tutto è solo realtà. Bene, io volevo aggiungere una cosa alla fine, perché secondo me adesso io c'ho sempre questo pallino, Alessandro, come ti ho detto, sulla necessità poi di andare a riscoprire le cose, riprenderle, riportarle e portarle sempre nella quotidianità, nel presente, che è il momento in cui noi ci stiamo parlando e ci stiamo confrontando. A questo proposito, io vorrei ricalcare, secondo me, almeno da lettore, da appassionato, da persona interessata, vorrei ricalcare e ribadire sempre questo sentimento che ogni tanto viene lasciato sempre come troppo sottinteso, anche se costituente, questo sentimento di antagonismo, di rifiuto e di permanente critica allo stato attuale delle cose, che poi secondo me, quando prima ti facevo la domanda sull'eredità, sull'attualizzazione di quello che riproponiamo, per me è proprio questo il punto, cioè andare a riscoprire, a rileggere, a riapprezzare qualche cosa che poi noi riportiamo al giorno nostro e ci domandiamo, perfetto, noi di questa lettura, di questo spirito, che cos'è che ci... cos'è che ci prendiamo? Io, se posso dire una cosa, io vorrei molto focalizzarmi su tutto questo aspetto di rifiuto, di negazione, di contrarietà verso lo status quo, che poi secondo me è anche la cosa più importante che ci riportiamo in giorni nostri. Sì, c'era quello, e quello che dici a... dovrebbe avere un nuovo valore, una nuova linfa. Sottolineo però che questi ragazzi, oltre che avere quella componente che tu giustamente hai sottolineato, avevano una componente costruttiva, cioè cerchiamo di trovare i nostri fratelli, di costruire la nostra tribù. Quindi se da una parte era la componente del rifiuto, chiamiamolo così, dall'altra parte era la costruzione di una nuova ipotesi anche di umanità tra i propri fratelli. Certo, non è un'ipotesi che parte da un ideale di ricostruzione di un'umanità veramente molto ampia, però un'ipotesi percorribile davvero anche per questo. Un'ipotesi in cui portare avanti azioni estetiche con i propri fratelli, con coloro che condividono senza molti preamboli o spiegazioni una certa idea di fare, di vita, di letteratura, di essere poeta o di cambiamento. Quindi c'è sia la parte destruence in questa prospettiva, ma anche una parte construence che è preziosa e significativa, ecco, che oggi manca disperatamente. E io ti dico, in chiusura un po' di questa registrazione, mi piacerebbe proporre un brano che si chiama Le Déserteur di Vian, di cui parlavamo prima, che è un brano contro la guerra, che secondo me può sembrare una cazzata, può essere una cosa un pochino retorica, ma mai come adesso, secondo me, un po' tutto questo sentimento di essere disertori, di critica, di pensare a un modo diverso anche di stare insieme, secondo me mai è stato così attuale come lo è nei giorni che stiamo vivendo. E poi sì. Una componente che io non ho toccato prima, nelle poesie degli anni 60, la componente antimilitarista, sia anti, diciamo, esatto, l'essere militare nella società e sia contro la guerra è molto forte e potente. Sì, sì, sì. Soprattutto la guerra in Vietnam di allora, certo. Quindi, se sei d'accordo, io chiuderei la registrazione con la trasmissione di questo brano. Sono che d'accordo. Secondo me è molto interessante. Sono d'accordo. Vado. Grazie mille a tutti. Siamo stati qui con Alessandro Manca e un saluto da Alex Alge. Grazie. Le Déserteur.